La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Una storia diversa, che parla di scienza e spiritualità. Una prima volta che descrive la vita di una ragazza trentina con il sogno di andare verso l'altro. Questa è la storia di Maria Martinelli, 57 anni. Il suo sogno da bambina era aiutare gli altri. E lo ha realizzato questo sogno. Oggi Maria è il direttore di un ospedale a Wau, in Sudan. È un medico chirurgo ed è una suora comboniana. Allora, sto parlando da Wau, che è una città, la seconda città del Sud Sudan, nel stato del Western Ghazal, e sto parlando dall'ospedale San Daniel Comboni. In questo momento vedo nel cortile i parenti dei pazienti, un po' di pazienti fuori che prendono l'aria, soprattutto i bambini che stanno prendendo l'aria, perché è troppo caldo dentro. Perché lei è un medico chirurgo, giusto? Sì, sono un medico chirurgo, sì. E mi sono laureata a Pavia nell'83, dopodiché sono entrata nella congregazione delle missionarie comboniane e sono stata un periodo in Inghilterra per la medicina tropicale e poi sono partita per l'Africa. E sono praticamente 22 anni che sono in Africa, con una parentesi di qualche anno in Italia. Ecco. E sono stata in Uganda, in Etiopia, in Chad e adesso sono in Sud Sudan dal 2008. Ma lei quindi quando studiava medicina sapeva qual era il suo percorso? Sapeva che avrebbe voluto poi fare questo tipo di percorso? Beh, quando ho iniziato avevo in mente di venire in Africa, probabilmente più come volontaria che come religiosa. Poi durante l'università si è specificato un pochettino di più il discorso della mia vocazione missionaria religiosa. Quindi lei durante l'università ha scelto di diventare poi suora. Come è stata accolta questa scelta, sì, anche dalla sua famiglia? Com'era la sua famiglia rispetto a questa sua decisione? Ma la mia famiglia era una famiglia, soprattutto i genitori, profondamente religiosa, quindi non hanno avuto problemi ad accogliere una scelta di questo tipo. Solo quando io ho comunicato che probabilmente avrei fatto questo, era durante l'università, quindi mi hanno detto, finisci di studiare. Ma era chiaro anche in me che avrei finito di studiare prima di venire, quindi non c'era un grosso problema da quel punto di vista lì. E poi mi hanno sempre appoggiata, e anche adesso i miei genitori sono morti, però i miei fratelli continuano ad appoggiarmi, ad aiutarmi, lei, anche moralmente, diciamo. Fa sempre bene sapere che si è sostenuti, che si è voluti bene, che si è incoraggiati dalla propria famiglia, dagli amici, da tanta altra gente che in Italia o nei posti da dove veniamo, insomma, crede nello stesso ideale praticamente, ecco. In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, e che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua nella provincia. È ancora adolescente Maria quando decide che la sua vita adulta sarà in Africa. Un sogno forte che cresce tra gli altri sogni dei bambini. Tra ballerine e calciatori c'è Maria e la sua Africa. Un sogno che si compirà per davvero. È il 1983. Maria si laurea e nello stesso anno inizia il periodo di formazione nella congregazione delle missionarie comboniane. Sta per diventare suora. Sono praticamente 22 anni che sono in Africa, con una parentesi di qualche anno in Italia. Ecco. E sono stata in Uganda, in Etiopia, in Chad e adesso sono in Sud Sudan dal 2008. Ecco, suor Maria, io però una cosa che mi sono chiesta leggendo la sua storia, no? Com'è stato essere donna di scienza e anche di culto? Cioè, com'è riuscita a conciliare le due cose? Beh, non litigano mica le due donne, cioè. Anzi, per me il fatto di avere fatto questa scelta è stato prima di tutto una scelta in ambito religioso, diciamo, e poi professionale. Cioè, è chiaro che non è che perché io sono suora la mia professione la devo fare pressappoco, anzi, e non è che perché una è suora non possa fare la professione di tipo scientifico, anzi, per me è appunto una cosa completa l'altra, ecco. Senta, una cosa dà senso all'altra. E lei diceva che prima di arrivare in Sud Sudan ha partecipato a diverse missioni, sempre come medico o anche semplicemente come religiosa inizialmente? No, sempre con lo stesso tipo di figura, come medico missionario. Quindi, ecco. Vabbè, in Uganda sono stata poco, sono stata in un ospedale un annetto, poi sono andata in Etiopia e ho aiutato a coordinare i dispensari che avevamo in una regione dell'Etiopia. In Chad mi era stato chiesto di organizzare, di mettere insieme un ospedale di distretto e il distretto, naturalmente cose che ho fatto insieme con altri, non da sola. Ovvio, sì. E no, sarebbe impossibile, no? E poi qui in Sudan ho cominciato, mi ha mandata qui per iniziare una scuola per infermieri e poi si è delineata la necessità di avere un ospedale decente, diciamo, in cui i ragazzi potessero fare la pratica. Quando sono arrivata nel 2008, erano appena usciti dalla guerra e poi neanche del tutto, c'era più rovine che altro, no? Il sistema sanitario nazionale, così come quello educativo, così come tante altre cose, erano collassati completamente. Adesso si stanno riprendendo un pochino alla volta, però certamente hanno bisogno anche di queste strutture nostre, diciamo, che spalleggiano quelle governative, nel senso che, vabbè, anche qui a Lao c'è un grosso ospedale governativo che però ha diversi problemi, sia di manutenzione che di personale che di strumentazione, ecco. E quindi c'è bisogno, io vedo un po' come non è che risolviamo tutti i problemi della sanità del Sud Sudan, certamente, però possiamo dare del tipo un modello, ecco, degli esempi, ecco, che poi possono essere imitati. La prima volta. Disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e immaginato in questa vita sola che non ti guarirà. È il 2008. Suor Maria, medico chirurgo, arriva in Sud Sudan. Il paese è attraversato da una violenta guerra. La ragazza, oggi donna, ha un compito: aprire una scuola per infermieri professionali. A lavorare oggi al fianco di Suor Maria ci sono proprio quegli uomini e quelle donne che lei stessa ha formato e che, insieme a lei, hanno messo in piedi l'ospedale, un ospedale che accoglie centinaia di persone che arrivano da ogni parte, dai villaggi lontani, col corpo ferito. Vendono polvere bianca i nostri giornata tipo, insomma, sono sempre un po' una diversa dall'altra e anche un po' uguale, dipende da come mi si guarda. Ma io mi alzo alle 5:30 per la preghiera personale, la preghiera comunitaria, la messa, eccetera, no? E poi verso le 8 vengo in ospedale, facciamo il giro, c'è con me un'altra consorella, medico anche lei, più giovane di me, e facciamo il giro dei malati, mentre gli altri, abbiamo altri tre dottori sul sudanese che si occupano dell'outpatient department, no? degli esterni, pazienti esterni. Noi ci occupiamo principalmente della parte degli ospedalizzati. E dopo il giro nei reparti cominciamo gli interventi chirurgici, che sono quasi tutti i giorni, 3, 4, 5, poi dopo i maggiori, poi le cose minori, poi un po' di visite di malati un po' particolari che ci mandano dagli ambulatori, poi se riusciamo andiamo a mangiare e poi torniamo per il giro del pomeriggio, che facciamo con un po' più di calma, quindi ci guardiamo i malati nuovi e vediamo come vanno gli operati, programmiamo per il giorno dopo, ecco, e poi dopo a una certa ora riusciamo ad andare a casa, preghiera della sera, cena e buonanotte. E buonanotte, perché dalle 5:30... Senta, le volevo chiedere questa cosa, sì. Perché poi magari uno ascoltando in radio distrattamente questa intervista non capisce, cioè di che cosa si muore in Sud Sudan, cioè qual è la situazione oggi in questo paese, per far capire. Guarda, dipende un po' dalla regione, però in generale in tutto il Sud Sudan purtroppo si muore ancora di malaria, e parecchio, perché c'è ancora tanto da fare al riguardo. La malaria è praticamente, come si dice in termini tecnici, oloendemica, no? C'è praticamente tutto l'anno, anche se c'è una punta molto, molto acuta, molto forte durante la stagione delle piogge, perché ci sono acquitrini dappertutto quando piove e quindi le zanzare proliferano abbondantemente, e le zanzare sono quelle che portano il parassita responsabile della malaria, il plasmodium, no? E abbiamo molti, molti bambini che, se non curati in tempo, muoiono purtroppo, no? Soprattutto bambini piccoli sotto i 5 anni, però anche più grandicelli e anche adulti, perché è veramente un grosso problema. E per i bambini, per le mamme in attesa, abbiamo tantissimi aborti causati dalla malaria e tantissimi parti prematuri. È un problema importante, con la malaria. Ci sono dei momenti in cui a sera, quando torna a casa, va a casa con un bel groppo in gola? Sì, quando non riusciamo ad aiutare come si deve queste mamme o i bambini. E ieri, per esempio, è successo che ci sono arrivati due, una bambina e un uomo adulto morsi da un serpente, due posti differenti, no? La bambina per fortuna sta benino, invece l'uomo dopo un po', nonostante il siero anti-serpente, l'antiveleno, è deceduto. Lì, insomma, resti un po' con un groppo, perché dice, ma purtroppo non abbiamo potuto fare un granché per lui, no? Oppure quando arrivano delle mamme che da villaggi lontani, che non riescono a partorire, magari hanno spinto 2 o 3 giorni a casa, e il bambino dopo, naturalmente, arrivano col bambino morto dentro, bisogna fare un cesareo per un bambino morto, e poi è sempre un disastro perché ci sono infezioni e così. Ora quelle cose lì fanno un po' andare giù di corda. E anche vedere che tante di queste cose sono cose dovute all'ignoranza. Di cosa si muore? Si muore di ignoranza tante volte. Ma tutte queste cose non le fanno vacillare ogni tanto anche la sua fede? Per me, se non ci fosse la mia fede, avrei già fatto le valigie. Guardi, se qualcuno volesse aiutarci è sempre benvenuto, perché ci sono tante. Noi chiediamo un pochino di partecipazione ai costi, però ovviamente è una roba minima rispetto a quello che sono le spese. Quindi ogni aiuto è sempre benvenuto. Se so che la campagna che era stata promossa da AISPO è terminata, però qualcuno volesse contribuire può farlo ancora attraverso il sito di AISPO, www.aispo.org. Questa puntata è dedicata a tutti quei ragazzi e non ragazzi, laici, atei, credenti, che continuano, per fortuna, a contribuire perché il mondo sia un posto migliore. Buon Natale a tutti voi. Ci risentiamo domenica prossima. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo l'impossibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è star scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere.